Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Sono le 17.06. Buonasera a tutti da Deborah Rosciani. Benvenuti a Focus Economia, il racconto e il resoconto della giornata economico-finanziaria. Una giornata che, per quello che riguarda la borsa, è stata prevalentemente negativa. Adesso c'è un piccolo scatto sul finale che riguarda soprattutto Milano, già ieri protagonista assoluta europea degli scambi, con un rialzo del 3,8%. Adesso segna più 0,08%. Quindi si consolidano e rafforzano i rialzi di ieri. Buone notizie arrivano di nuovo anche sul fronte spread. Il differenziale fra Italia e Germania è arrivato a 276 punti base, quindi sempre più in giù, al di sotto della cosiddetta, quella che ormai abbiamo ribattezzato, soglia Monti, 287 punti base, che rappresentavano appunto l'auspicio del premier uscente, che qualche settimana fa aveva detto: il mio obiettivo è appunto di arrivare a quel livello, che è esattamente la metà dello spread che ho trovato quando mi sono insediato. Sono leggermente negative le altre piazze europee, ma di poco, circa lo 0,2% di calo su Parigi e Francoforte. Leggermente negativa anche Wall Street, dove naturalmente ancora c'è un'eco vastissima rispetto ai risultati ottenuti al photo finish al congresso americano sul fiscal cliff. Anzi, gli Stati Uniti evitano il baratro fiscale, come è noto, appunto ne abbiamo parlato diffusamente ieri, quindi si evita la possibile ricaduta in recessione e il mercato da due giorni ha un fortissimo sospiro di sollievo. Questo è il quadro di borsa che racconteremo diffusamente nel corso della trasmissione. Peraltro faremo un focus anche dedicato alla Spagna, perché oggi il Ministero del Lavoro spagnolo ha diffuso dei dati sulla disoccupazione che in apparenza sono molto incoraggianti, perché in dicembre il numero dei disoccupati appare in calo, ma in realtà poi ci hanno spiegato, e ve ne parleremo appunto nel corso della trasmissione, che non sono i dati ufficiali, perché i dati ufficiali sono quelli diramati dall'Istat spagnolo nella sostanza. In realtà, ad andare a guardare quelli, il livello di disoccupazione appunto in Spagna è ancora elevatissimo, rimane quello dei mesi precedenti, quindi la crisi ancora fortissima attanaglia questo paese, che non ha ancora, dopo aver ricapitalizzato le sue banche, non ha ancora chiesto gli aiuti internazionali, e questo peraltro è anche un tema al centro di un'indagine che sta conducendo il Sole 24 Ore in questi giorni, che sta monitorando la condizione di quei paesi, dei PIGS, dei paesi appunto periferici dell'Europa. Ieri si è cominciato con l'Irlanda, oggi sulle pagine del Sole appare la situazione della Spagna, poi naturalmente nei prossimi giorni si parlerà anche di Grecia e Portogallo. Parleremo del mercato dell'auto. Ieri abbiamo avuto dal Ministero dei Trasporti i dati definitivi sul 2012, un anno drammatico per questo comparto economico appunto italiano, un anno che riporta indietro le lancette del settore al 79, mai così male le immatricolazioni da quel periodo. È in leggera risalita la quota di mercato di Fiat, ma le immatricolazioni anche per il lingotto sono pesantissime, ma al contrario del mercato italiano, Fiat vende tantissimo in Brasile, Chrysler vende tantissimo negli Stati Uniti, per cui effettivamente c'è questo effetto compensazione che evidentemente soddisferà moltissimo Sergio Marchionne. Anche di questo parleremo a lungo. Poi, in apertura, dopo le notizie in breve, una parentesi fiscale, tutti sull'attenti, perché è pronto il decreto attuativo per il nuovo redditometro, per cui attenzione, qua tra l'altro ci rivolgeremo anche a tutte le persone che magari contribuenti nelle scorse settimane si sono un po' dilettate, divertite a così compilare il redditest, che è questa prova sulla propria condizione di reddito per appunto verificare la propria congruità, messa a disposizione dell'amministrazione fiscale. Insomma, ne parleremo tra qualche minuto. Per tutte le vostre riflessioni sui temi di oggi ci potete scrivere al 349-238-6666 i vostri messaggi. Adesso le altre notizie in breve della giornata. Apriamo come sempre con l'andamento delle materie prime. L'oro oggi poco mosso sui 1687,55 dollari l'oncia, invece il petrolio a New York viaggia a 92,82 dollari al barile. L'accordo sul fiscal cliff è un ulteriore passo in avanti nel chiarire la traiettoria di medio-lungo termine del deficit e del debito, ma servono ulteriori misure per ridurre il deficit. Se queste non saranno adottate, il rating potrebbe risentirne negativamente, lo ha affermato oggi l'agenzia di rating Moody's. E ancora, l'accordo sul fiscal cliff non avrà impatto sull'outlook americano, cioè sulla prospettiva appunto americana di rating. Il compromesso fa poco per mettere le finanze pubbliche americane su una traiettoria più sostenibile nel medio termine. Questa invece è l'affermazione dell'agenzia Standard & Poor's, che ha tagliato il rating appunto americano la scorsa estate, mantenendo la propria stima di una crescita del PIL statunitense del 2,2% quest'anno. Standard & Poor's ha rivisto a ribasso anche le chance di una nuova recessione americana nei prossimi 12 mesi al 10-15%, dal 15-20% precedentemente indicato. Domani viene diffuso negli Stati Uniti il dato sulla disoccupazione di dicembre, ma in genere è un dato che viene diffuso il primo venerdì nel mese. Nel giorno precedente vengono diffuse delle statistiche che anticipano un po' quella che potrebbe essere poi la statistica ufficiale. È stato diffuso infatti il consueto sondaggio dell'agenzia ADP, che dice che nel settore privato americano si sono creati in dicembre 215.000 nuovi posti di lavoro, un dato che sarebbe superiore alle attese degli analisti, che scommettevano sulla creazione di 140.000 nuovi posti di lavoro. Il numero dei licenziamenti programmati nelle aziende americane invece in dicembre è calato del 22,1% rispetto allo scorso anno. In questo caso è quanto emerge dal sondaggio Challenger Gray & Christmas, secondo il quale il 2012 si chiude per annunci di licenziamento ai minimi dal 2007, con 523.362 licenziamenti programmati a fronte dei 434.350 del 97, quindi addirittura è stato esaminato un decennio. Sussidi di disoccupazione, invece, le richieste negli Stati Uniti nell'ultima settimana sono aumentate di 10.000 unità, quota 372.000, lo ha comunicato il Dipartimento del Lavoro. Dai dati sull'occupazione e la disoccupazione negli Stati Uniti andiamo all'Europa. Oggi abbiamo avuto i dati tedeschi. In dicembre il tasso di disoccupazione è rimasto fermo al 6,9%, ma il numero dei senza lavoro è aumentato di 3.000 unità a 2,942 milioni. Lo scrive Bloomberg, citando l'Agenzia Federale del Lavoro. Il dato è migliore delle stime degli economisti. In calo per la prima volta invece a dicembre, dopo 5 mesi, la disoccupazione in Spagna. Le richieste di sussidio di disoccupazione il mese scorso sono calate di oltre 59.000 unità, secondo quanto rende noto il Ministero del Lavoro spagnolo. Però appunto alcuni analisti sottolineano che c'è un'incongruenza rispetto alle statistiche ufficiali formulate dall'Istat spagnolo, e ne parleremo più tardi. In calo per il 7° mese consecutivo a novembre i prestiti a famiglie ed imprese nell'Eurozona, lo comunica la Banca Centrale Europea, spiegando che su base annua la contrazione è stata dello 0,8%, su base mensile la flessione è stata dello 0,1%. La massa monetaria nella zona euro ha segnato sempre a novembre una crescita del 3,8%. Andiamo a questa divertente polemica che sta animando il dibattito francese. Sentire certi detentori di grandi patrimoni gemere per il livello di tassazione di cui soffrirebbero è qualcosa di particolarmente indecente. Lo ha affermato il ministro delegato francese all'economia sociale e solidale, Benoît Hamon. E invece è una prerogativa esclusiva del capo dello Stato russo, non richiede veramente alcun commento da parte mia, è una scelta del capo dello Stato. Così la porta voce del governo francese ha risposto ai giornalisti che durante la conferenza stampa settimanale appunto del governo le chiedevano una reazione sulla notizia del conferimento a Gérard Depardieu sulla cittadinanza russa. Appunto Gérard Depardieu è l'attore che si è particolarmente scandalizzato e animato in questi giorni per l'aumento della tassazione appunto sui grandi patrimoni francesi. Alcune notizie italiane prima del primo approfondimento di oggi. Vi dicevo, lo spread fra BTP e Bund oggi ha rotto anche a ribasso la soglia dei 280 punti base, scivolando fino a quota 276, un livello che non si vedeva da metà agosto del 2011. Il rendimento del BTP è in calo al 4,22%, in forte discesa anche il tasso del titolo con scadenza a 2 anni, che è sceso fino all'1,68% ai minimi da ottobre 2010. E però nel 2013 si pagheranno tante tasse, ne stiamo parlando da moltissime settimane, si pagheranno 14,7 miliardi di tasse in più, un aggravio per ciascuna famiglia che sarà di 585 euro. Questa è la stima della CGA di Mestre, secondo la quale quest'anno la pressione fiscale, tenuto conto anche degli effetti della legge di stabilità, si attesterà al 45,1% del PIL, 0,2 punti percentuali in meno rispetto alle previsioni elaborate dal governo nel documento di economia e finanza dello scorso settembre. L'ultima notizia, nel 2012 i consumi italiani di gas sono tornati indietro di quasi 10 anni, per il calo sia della domanda termoelettrica, penalizzata dalla debolezza dei consumi di elettricità e dalla concorrenza delle fonti rinnovabili, che di quella industriale. Secondo le elaborazioni di Staffetta Quotidiana su dati di Snamerete Gas, l'Italia ha consumato 74,25 miliardi di metri cubi, ben al di sotto dei 77,68 del 2003. Il calo sul 2011 è stato del 4,1%, mentre quello sul 2010 è stato del 10,2%, e tutto ciò nonostante il 2012 sia stato ben più freddo dell'anno precedente e le vendite di automobili alimentate a metano siano aumentate del 40%. Adesso cominciamo a mettere subito di malumore i nostri ascoltatori. Il primo approfondimento di oggi, parliamo di fisco. Giovanni Parente, Il Sole 24 Ore, buonasera. Non metti la cuffia, non vuoi sentire quello che ti devo dire? No. Preferisci di no? Preferisco sentirti così. Viva voce. Quando arriva Giovanni Parente, di solito cattive notizie abbiamo sempre, non abbiamo buonissime. No, non voglio dire questo adesso anche a te. Tutte le sere abbiamo sempre lo stesso problema con i colleghi del Sole, una cuffia che non funziona. Dovresti provare ad alzare questi cursori uno ad uno, così arriviamo anche al farti sentire bene in cuffia quello che diciamo. Okay. Siamo a posto? Perfetto, okay. Ottimo. Caro Giovanni, allora raccontaci un po' cosa sta succedendo a Roma in queste ore. È pronto il decreto attuativo per il nuovo redditometro, lo strumento di accertamento sintetico dei redditi delle famiglie italiane. Allora, a che cosa serve questo strumento? Naturalmente tutte le volte che noi lo citiamo, lo evochiamo, è perché contestualmente parliamo anche di evasione fiscale, tutta la lotta appunto che si fa contro questa grande piaga nel nostro paese. Per la verità non è uno strumento nuovo, perché questa è una versione aggiornata. Il redditometro noi lo conoscevamo già nel nostro paese. Giovanni. Assolutamente, insomma, come recita anche il preambolo del decreto di attuazione, per cui abbiamo atteso oltre 2 anni e mezzo, insomma, perché era stato previsto la manovra estiva del 2010, governo Berlusconi, insomma, quindi insomma siamo ben prima del cambio di governo. È uno strumento che viene riaggiornato per tener conto anche delle evoluzioni / involuzioni purtroppo delle famiglie italiane. Quindi in qualche modo si tiene anche conto di dell'esigenza di fotografare in maniera diversa la ricchezza delle famiglie italiane. Lo strumento, diciamo, concettualmente è molto semplice. Dimmi quanto spendi, cercherò di ricostruire effettivamente quanti redditi dovresti avere. La finalità ultima dell'operazione è arrivare a stanare appunto coloro che dichiarano troppo di meno rispetto a quanto spendono. Ricordiamo che c'è una soglia di tolleranza, quindi l'accertamento vero e proprio scatterà nel momento in cui il reddito ricostruito dal fisco dovesse superare del 20% quello che è stato effettivamente dichiarato in unico o nel 730, ma più in unico, insomma, diciamo, serve più in qualche modo a catturare le tipologie di reddito non da lavoro dipendente essenzialmente. Dimmi. Sì, no, vai, stavo intanto anticipando anche un'altra cosa, che domani Il Sole 24 Ore dedica un grande approfondimento appunto a questa novità. Insieme a questa, lo vorrei ricordare, sul Sole c'è anche un focus sulla riforma del lavoro e i voucher e un inserto sulle nuove imposte locali, chiusa parentesi. Quindi andiamo ancora appunto alle novità che verranno presentate domani. Quali ce ne sono nel decreto attuativo? Esattamente, che cosa fa questo decreto attuativo? Dice al fisco dove devi andare a prendere gli indicatori di spesa, sostanzialmente per ricostruire il reddito del contribuente. contribuente. Allora, in alcuni casi sono dati che sono già in possesso delle macro banche dati del fisco, quindi sono o presenti o sono stati dichiarati la dichiarazione dei redditi o sono presenti in anagrafe tributaria. Ricordiamo che noi siamo in qualche modo fonte di dati da diversi profili, ricordo soltanto quelle delle utenze domestiche che vengono comunque già comunicate nei macro servizi. Infatti noi qualche fisco. Volta quando parliamo di questi strumenti di accertamento ci spaventiamo sempre a morte e non ricordiamo che per la verità siamo tracciati da ogni dove, tracciatissimi, per cui basti ricordare i nostri comportamenti di spesa, il pagare le bollette, utilizzare in qualsiasi modo anche il conto corrente, tutto rende possibile ricostruire la nostra condizione. Meraviglioso, esatto, meraviglioso fino a un certo senso, questa è la ricostruzione perfetta, in questo è un complimento a te Deborah. In realtà quando invece questi dati non sono presenti, pensiamo semplicemente alla spesa per alimentari o alla spesa per abbigliamento ad esempio, viene usato, cioè la stampella che il fisco utilizzerà è la spesa media in qualche modo fotografata dall'Istat, quindi chiaramente che ha diverse declinazioni per composizione del nucleo, per area geografica in cui è ubicato il nucleo, e questo sarà la stampella che servirà al fisco per poter poi arrivare a calcolare il reddito che avremmo dovuto dichiarare. È sempre necessario fare sempre un passo indietro. A che cosa serviva il redditest? Serviva in qualche modo a farci dichiarare più di quello che avremmo dovuto dichiarare. Il redditest, esatto, che era lo strumentino che abbiamo presentato non più tardi di qualche settimana fa. 20 novembre, qui. Guarda, esatto. La puntata, l'ho ripescata. Sì. Esatto, e serviva appunto a farci dichiarare qualcosina in più. Ora, questo decreto attuativo che arriverà in Gazzetta Ufficiale domani ci consentirà al fisco invece di fare i veri propri accertamenti sul contribuente, quindi insomma con i redditest noi in qualche modo ci prepariamo a dichiarare di più. Con questo strumento, con questo decreto, il fisco avrà le armi vere e proprie per poter accertare gli evasori presunti evasori. Hai rievocato appunto il redditest, per quale motivo dici che ci dava l'opportunità di dichiarare un po' di più? Cioè in realtà quello era uno strumento che l'amministrazione fiscale aveva messo a disposizione, per la verità era proprio un software dell'Agenzia delle Entrate che noi compilando in via del tutto facoltativa, non era un obbligo, perché già si stanno scatenando gli ascoltatori che credono di confessare un peccato che hanno commesso. Io non ho compilato il redditest, cosa mi succede? Niente, perché era una disponibilità che è stata appunto fornita dall'Agenzia delle Entrate per togliervi una curiosità, per verificare se poteva o meno scattare un semaforo rosso e se appunto il reddito dichiarato poteva essere, anzi se le spese appunto sostenute da una famiglia potevano essere coerenti con il reddito dichiarato. Detto questo, per quale motivo appunto tu dicevi che in realtà ci dava l'opportunità di dichiarare qualcosa in più? In realtà quello è lo strumento che serve a noi contribuenti per adeguare eventualmente il nostro reddito da dichiarare. Questo invece è lo strumento che serve al fisco per accertare, perché in quell'occasione quando presentammo appunto il redditest dicevamo questo non serve al fisco, i dati non vanno al fisco, vengono in nessun modo non arrivano alle banche dati del fisco, è solo uno strumento che gira in remoto e che in qualche modo serve a preparare noi. Ecco, diciamo quella era la fase di allenamento del contribuente in qualche modo per verificare la sua congruità rispetto ai risultati attesi dal fisco. Questo è lo strumento che serve a completare l'operazione nuovo redditometro e che dà le armi vere e proprie all'amministrazione finanziaria per andare appunto a scovare gli evasori, ricostruendo appunto il loro reddito effettivo, quello che il fisco presume sia effettivo, partendo appunto da una serie di voci di spesa. Per esattezza sono 100 voci di spesa. La cosa importante, tra le cose importanti che emergono da questo decreto, da una prima lettura di questo decreto, è che chiaramente il fisco non si legherà del tutto le mani, vuol dire non è che prenderà solo questi dati già presenti nelle banche dati o in alternativa le spese Istat. Laddove dovesse, anche attraverso dei questionari rivolti ad altri contribuenti, anche attraverso delle altre ulteriori indagini, ulteriori riscontri effettuati, ritrovare ulteriori informazioni utili, potrebbe utilizzare anche quelli per ricostruire il reddito del contribuente. Ecco, ci spieghi anche Giovanni, visto che questo è un altro tormentone che so già notare, notando appunto tra molti ascoltatori, intanto appunto che tempi di utilizzo ci saranno da parte dell'amministrazione fiscale, cioè il decreto attuativo adesso, quando poi il fisco comincerà ad utilizzare effettivamente le incongruenze che noterà mettendo a confronto i dati del redditometro di ogni contribuente rispetto ai dati appunto dello spesometro, quindi quando poi effettivamente diventerà utile tutto questo ai fini di una efficace lotta all'evasione fiscale. Allora, la tempistica indicata nei giorni scorsi, anche attraverso dichiarazioni di stampa, era la primavera. Cioè, da questa primavera dovrebbero partire i nuovi accertamenti con il nuovo redditometro, il nuovo accertamento sintetico. È chiaro che comunque una fase di rodaggio, di messa a punto, insomma, in qualche modo dovrà essere fatta, dovrà essere effettuata da parte dell'Agenzia delle Entrate. Cosa importante è che chiaramente i numeri e i numeri degli accertamenti sintetici negli ultimi anni in qualche modo si sono mantenuti standard, cioè non hanno superato le decine di migliaia di accertamenti. Questo che cosa vuol dire? Che non, anche se si fa tanta enfasi, anche se è uno strumento di accertamento diffuso, non è che verranno accertati tutti quanti gli italiani attraverso gli accertamenti sintetici. Le armi di cui dispone il fisco sono molteplici, sono state aumentate nel corso degli ultimi anni, e quindi bisognerà in qualche modo tener conto che le modalità di accertamento sono comunque differenziate da parte dell'Agenzia delle Entrate e di controlli della Guardia di Finanza. Ecco, una volta che scatta l'accertamento, una volta che mettendo a confronto i risultati del redditometro su un contribuente appunto e quelli dello spesometro si manifesta questa palese incongruenza, a che percentuale deve ammontare? Il 20%. Il 20%. Però, l'accertamento scatta automaticamente? Assolutamente, ecco, no. Perché questo è un altro tema. Una novità importantissima del nuovo accertamento sintetico del nuovo redditometro, che non esisteva in passato ed è un obbligo previsto per legge. Cioè il fisco deve invitare il contribuente e farsi spiegare per quale ragione. La cosiddetta inversione dell'onere della prova. Esatto. Perché questa è un'altra cosa che fa un po' arrabbiare, però purtroppo. Diciamo che in questo caso è un vantaggio per il contribuente, perché il contribuente può andare lì, dimostrargli che ha sostenuto determinate spese con dei redditi che gli derivano. La volta scorsa al Redditest parlavamo di una giocata all'otto, una vincita all'otto. Sì, ti ricordi quel signore che aveva vinto il Turista per Sempre? Esatto, quindi aveva questo introito straordinario, però arrivandogli il bonifico in banca, in banco, in posta, non mi ricordo dove fosse, tutti i mesi, lui poteva assolutamente dimostrare l'origine di questa entrata straordinaria, per cui non c'è nessunissimo problema. Assolutamente. Oppure il caso frequente nel welfare familiare italiano, caso molto frequente di donazioni che vengono fatte soprattutto dai genitori ai figli, laddove appunto donazioni in denaro che raccomandiamolo sempre, fatte sempre in maniera tracciabile e con un'indicazione specifica della causale, così in qualche modo siamo sempre coperti. Ecco, io posso andare dall'Agenzia delle Entrate e spiegargli che questi soldi mi sono derivati appunto da una donazione che mi è stata fatta da un mio familiare, finalizzata a un determinato acquisto o finalizzata a mantenere il mio tenore di vita. Quindi insomma, questa opportunità in più del contraddittorio, per cui il fisco deve prima ascoltare e poi può successivamente accertare solo se queste motivazioni, queste argomentazioni che il contribuente dovesse proporre non fossero ritenute valide e attendibili o le sue prove fossero più forti delle difese addotte dal contribuente, è una garanzia sicuramente in più che in passato non c'era e ora ci sarà. Altro aspetto importante da sottolineare è che questo nuovo meccanismo, per cui il decreto attuativo appunto rappresenta il tassello operativo, l'ultimo tassello operativo, si applicherà per gli accertamenti sulle dichiarazioni da unico 2010 in poi, quindi non per quelle precedenti. Quindi da unico 2010 in poi si applicherà questo nuovo sistema di accertamento. Secondo te il fisco, visto che quest'anno lo Stato ci chiede tanti soldi in più per le tasse, stiamo continuando a presentare i resoconti che molti osservatori, molti studi appunto stanno facendo per capire quanto in più dovremmo sborsare quest'anno. Noi stamattina a Salvadanaio abbiamo parlato della Tares e l'IMU e tanto altro ancora, poi adesso non mi rimetto di nuovo a fare tutta la lista, ma insomma, secondo te il fisco ci verrà anche a chiedere: guardi, il suo reddito non coincide esattamente con tutta la mole di tasse in più che quest'anno ha dovuto versare, no? Magari su quello tutti staranno zitti. Il problema qual è? Il problema qual è? È chiaro che è una provocazione, però. No, il problema è che gli accertamenti vengono fatti 3-4 anni dopo rispetto a quanto si dichiara o addirittura all'anno a cui si dichiara. Quindi per esempio il redditometro di adesso che tipo di periodi va ad accertare? Appunto, questo, il vecchio redditometro si applica fino al periodo d'imposta 2008, fino all'anno 2008. Mm-hmm. Diciamo che siamo già andati in qualche modo in scadenza dei termini di accertamento al 31 dicembre 2012, quindi per forza di cose questo era un atto dovuto per poter accertare dal 2009, per poter accertare dal periodo d'imposta 2009 in poi. E ecco che quindi, insomma, diciamo che dal periodo dal reddito del 2009 in poi si applica questo nuovo strumento, quindi quello che abbiamo, come dicevo prima, dichiarato in unico 2010, c'è sempre questo sfasamento temporale di un anno nella dichiarazione dei redditi. E la cosa importante è che, cioè, magari senza voi creare false aspettative nei nostri ascoltatori, ma usiamola come riferimento sugli studi di settore che riguardano invece poi gli accertamenti effettuati nei confronti di chi svolge attività di impresa e attività professionale. Gli studi di settore hanno tenuto conto di un'evoluzione della crisi negli ultimi anni, e anche la giurisprudenza tributaria dei ricorsi fatti presso le commissioni tributarie e poi in Cassazione hanno detto che in qualche modo l'effetto crisi stanno attestando l'effetto crisi. È normale che un'eventuale contrazione dei redditi che si è avvertita in questi casi per colpa della crisi economica possa essere una delle giustificazioni che il contribuente possa adottare. Naturalmente è bene avere delle pezze d'appoggio quando si va a giustificare qualcosa del genere, perché è normale, insomma, che l'Agenzia delle Entrate non accetterebbe una argomentazione generica del tipo ho dichiarato di meno perché ho guadagnato di meno, così. Devi dimostrare che cosa ha prodotto un minor volume di redditi, un minor volume di introiti per quegli anni. Per i lavoratori autonomi prevedo tempi duri. Non sarà molto facile. No, infatti. Però, insomma, sfruttare bene l'arma del contraddittorio e utilizzare molto spese tracciabili, questo potrebbe essere in qualche modo benissimo determinante. Siamo pronti allora anche a questa novità. Abbiamo detto tutto, Giovanni? Vabbè, domani approfondimento su Sole 24 Ore per tutti i segreti che non abbiamo svelato quest'oggi. Grazie per essere stato con noi, buona serata, ci fermiamo. Adesso prima pausa pubblicitaria, poi naturalmente la giornata di borsa. Focus Economia. Le 17:34 fra 8 secondi. Allora, prima della giornata di borsa, che vi anticipo, si sta chiudendo positivamente di nuovo per Milano, più 0,10% sul FTSE MIB. Poi vi racconto grazie a quali titoli. Vi voglio leggere questa notizia. Una delle più grandi case di investimento mondiali, Goldman Sachs, sentite che cosa ha fatto. Aggira il fiscal cliff. A dispetto delle tradizioni, la banca ha deciso di distribuire con un mese di anticipo, a dicembre invece che come di consueto a gennaio, 65 milioni di dollari di azioni vincolate a 10 dei suoi manager. I titoli, distribuiti nell'ambito dei piani di compenso decisi negli anni scorsi e non relativi al 2012, arrivano così nelle tasche dei top manager poco prima dell'aumento delle tasse previsto con l'accordo sul fiscal cliff. Il risparmio è evidente, pari all'1,6%. L'intesa in congresso, infatti, stabilisce un inasprimento della pressione fiscale al 39,6% nel 2013 dal 35% del 2012. E così, con la decisione di Goldman Sachs di anticipare la distribuzione dei titoli, che appunto, vi ripeto, solitamente avviene in gennaio, quando vengono decisi anche i bonus per l'anno precedente, si allunga la lista delle aziende americane che hanno accelerato la distribuzione dei dividendi per evitare appunto il fiscal cliff. I colossi americani hanno annunciato più dividendi lo scorso mese che in qualsiasi altro dicembre del 1995. Con questa bella notizia adesso andiamo alla giornata di borsa. Livia Zancanera, Radio Core, Il Sole 24 Ore, buonasera e buon anno. Buonasera, grazie anche a te. Ciao Livia. Allora, intanto, già anticipato la chiusura di Milano, che con uno scatto sul finale decide di non voler concludere la giornata in territorio negativo e segna più 0,10% sul FTSE MIB. Non ce la fanno invece le altre piazze europee, o perlomeno non ce la fanno Parigi e Francoforte, che segnano rispettivamente meno 0,34 e meno 0,29%. Londra ce la fa, più 0,30, ancora negativa invece la Spagna. Giornata dunque di consolidamento dei rialzi di ieri, Livia. Sì, in realtà diciamo che la giornata è stata piuttosto debole per le borse europee, appunto dopo l'exploit della vigilia grazie all'accordo americano sul fiscal cliff. Diciamo che oggi i mercati si interrogano un po' sulla reale efficacia dell'intesa, che prevede appunto l'incremento delle tasse per i cittadini più ricchi, ma ha in sostanza rinviato, secondo gli operatori, di 2 mesi la questione sui tagli alla spesa. Non sono infatti state convinte le agenzie di rating Standard & Poor's, Moody's e neanche il Fondo Monetario Internazionale. Milano, come dicevi tu, ha chiuso in territorio positivo ed è stata la migliore in Europa grazie anche al continuo calo dello spread BTP Bund, che oggi è sceso sotto quota 280 punti base, segnando i minimi dall'agosto del 2011. È arrivata a 276, peraltro anche le banche, che dopo il volo di ieri questa mattina avevano aperto la giornata con qualche presa di profitto, poi hanno ripreso di nuovo a risalire. Non tutte archiviano la seduta con il segno più, però in molte ce la fanno, poi ne daremo qualche indicazione. Però la regina della seduta è in pregilo, più 3,27%, cerca il rame a Panama e trova veramente un tesoro. Sì, infatti in pregilo ha comunicato di essersi aggiudicata insieme all'azionista Salini la gara per la realizzazione a Panama di un progetto relativo ai lavori per lo sfruttamento di una miniera di rame, un progetto che ha un valore complessivo di 560 milioni di dollari. In pregilo ha una quota di competenza del progetto del 50%, quindi il titolo, come dicevi tu, ha festeggiato in borsa guadagnando oltre il 3%. Finmeccanica più 2,93%, anche per Finmeccanica mi sembra sia arrivata un'altra bella commessa. Sì, assolutamente sì. Dall'Indonesia. Sì, sono arrivate 2 commesse in 2 giorni, ma in realtà una oggi dall'Indonesia, siglata da una compagnia low cost, una commessa dal valore complessivo di 500 milioni. Ricordiamo che le commesse sono state siglate entrambe in joint venture, e l'altra commessa è stata annunciata ieri ed è stata realizzata con una società israeliana, vale 140 milioni e partirà alla metà del prossimo anno. Allora, beh, insomma, qua è anche interessante considerare quali tipi di settori si stiano muovendo in questo momento di crisi, perché insomma la difesa e l'aerospaziale, chissà che cosa c'è dietro anche a tutto questo fermento. Allora andiamo a vedere gli altri titoli in evidenza nella giornata di Piazza Affari. Telecom più 2,35, il Biscione, Mediaset più 1,88, bene la galassia Fiat, che per la verità prima sembrava, almeno ad inizio giornata, aver subito i contraccolpi dei dati sulle matricolazioni di auto nel mese di dicembre, poi ieri è stato comunicato tutto il bilancio del 2012, pessimo per il settore, e a questo tema dedicheremo un approfondimento con Andrea Malan più tardi. Però insomma i titoli alla fine riescono a chiudere bene, con Fiat Industrial più 1,75 e Fiat SPA più 1,44. Le notizie dall'estero hanno fatto bene ai titoli oggi, Livia. Sì, assolutamente sì, infatti sono arrivate buone notizie sia dagli Stati Uniti sia dal Brasile. A dicembre le vendite del marchio Fiat negli Stati Uniti sono infatti salite del 59%, con una crescita del 10% per le vendite complessive di Chrysler, che è la controllata americana del lingotto. In Brasile Fiat nel 2012 ha visto salire le vendite dell'11,1% rispetto al più 6,1% del mercato, incrementando così la propria quota nel paese. Altro titolo che oggi si è mosso bene, Pirelli, più 1,46%. Ci sono delle novità? Sì, qui ci sono delle indiscrezioni riportate oggi dal Sole 24 Ore, secondo cui gli azionisti appartenenti al patto, che controlla il 45,5% circa del capitale di Pirelli, dovrebbe confermare appunto l'accordo sulle azioni, che verrebbe accordo che verrebbe quindi rinnovato per altri 3 anni. E gli operatori giudicano positiva la notizia, che tra l'altro non è scontata, in quanto le voci nelle ultime settimane riportavano sostanzialmente il contrario, cioè la non adesione da parte di qualche socio. Allora, questa è una notizia che leggiamo sempre con un po' di perplessità, però tant'è, il mercato racconta questo, dobbiamo darne conto. L'automatica oggi ha fatto più 1,25%, e qua questa azienda cresce perché in Italia si gioca sempre di più. Il mercato italiano dei giochi, che sfocia in veri e propri fenomeni di ludopatia in Italia, altro tema che sta guadagnandosi le prime pagine dei giornali, sta ottenendo ahimè grande attenzione. Ecco qua a quali risultati porta poi in borsa, Livia. Sì, assolutamente sì, diciamo che il gioco che piace di più tra virgolette è il gratta e vinci, che cresciuto del 12%, mentre il lotto è sceso. L'ottomatica ha beneficiato quindi della diffusione dei dati sul mercato italiano dei giochi, un mercato che a ottobre ha mostrato un calo dell'1,4% della raccolta, ma ha mostrato un miglioramento rispetto ai due mesi precedenti. Ricordiamo che comunque da inizio anno il mercato è in rialzo del 12,7%, quindi comunque un bilancio positivo. Un po' meglio di Lottomatica, che ha fatto appunto più 1,25%, ha fatto STM più 1,43%. Il titolo è stato positivo per tutta la seduta. È andato bene un po' tutto il settore tecnologico europeo oggi? Sì, oggi è andato bene tutto il settore tecnologico europeo. Ricordiamo che ST a Parigi ha guadagnato l'1,45%, il settore ha beneficiato sostanzialmente del balzo di ieri del Nasdaq americano, che ricordiamo che è il listino appunto che rappresenta i titoli tecnologici. Quindi in Europa sono andati bene anche in Fineon e appunto, come dicevamo prima, in linea di massima tutti i titoli appartenenti al settore. Sì, tra l'altro c'è STM a Parigi, appunto dicevi più 1,45, Alcatel Lucent ha fatto più 10%, quindi qua proprio davvero un po' tutto il comparto a 360 gradi oggi ha discretamente movimentato la seduta europea. Vedo che peraltro a Parigi anche Renault si è mossa bene, visto che parleremo dell'auto, più 1,18%, Pernod Ricard più 1,23%. Andiamo invece ai titoli che si sono mossi meno positivamente. Oggi giù le utility, ma direi che per A2A questo arresto di oggi, meno 1,12%, era anche abbastanza atteso, visto che ieri ha segnato un balzo del 6% questo gruppo. Sì, infatti per A2A si sono trattati soprattutto di realizzi oggi dopo il balzo della vigilia. Diciamo che il settore utility ha chiuso debole in tutta Europa, ha segnato un meno 0,23%, sono stati deboli nonostante il settore energetico invece positivo in Europa anche i titoli legati al petrolio, quindi in energia come Saipem, Terna, Enel, Snam ed Eni, ma ricordiamo anche che si tratta di titoli che hanno corso molto nelle ultime sedute, quindi in sostanza come per A2A si può parlare anche per questi altri titoli di realizzi. Certo, tra l'altro ieri anche un effetto indebitamento abbiamo indicato con CEO Condina, con lo spread che scende, probabilmente anche il carico del debito su queste società ne risulta un pochino alleggerito. Grazie a Livia Zancanè, Radio Cori Il Sole 24 Ore. Livia, ciao, buonasera, presto. Grazie anche a voi. L'euro sul dollaro peraltro adesso è a 1,31,10. Allora, noi tra un pochino dobbiamo andare ai suggerimenti per chi è in viaggio. Possiamo già andarci oppure possiamo salutare a Madrid Luca Veronese. Luca, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, come avrete senz'altro capito, adesso parleremo delle notizie che sono arrivate oggi dalla Spagna, ma direi di non iniziare per niente, in modo tale che non interromperemo inutilmente. Luca, sentiamo allora cosa sta succedendo sulle strade italiane. Focus Economia. Le 17:45, ancora buonasera da Deborah Rosciani, l'ultima parte di Focus Economia. Adesso parleremo di Spagna e poi parleremo di auto, e tra l'altro fra i due temi faremo anche un piccolo collegamento, adesso vi dirò perché. Ma in primo luogo partiamo dalla Spagna, una delle grandi malate europee, il paese appunto che rimane ancora circoscritto nel gruppo A4 dei PIGS, peraltro alla condizione di questi paesi periferici dell'Europa. Appunto il Sole 24 Ore sta dedicando un approfondimento in diverse puntate, evidentemente si è partiti ieri con Irlanda, oggi l'approfondimento è toccato a Luca Veronese, che è inviato in questi giorni di nuovo a Madrid. Si parla di Spagna, nei prossimi giorni si tornerà sulla Grecia, chiaramente poi anche sul Portogallo. Luca, il tema di oggi è la disoccupazione. Di primo acchito questa mattina abbiamo letto questo dato diramato dalle agenzie che enfatizzavano questo calo per la prima volta a dicembre scorso, dopo 5 mesi appunto della disoccupazione in Spagna. Sono scese anche le richieste di sussidio alla disoccupazione, e poi però a smorzare tutti i nostri ardori ci ha pensato lo stesso Luca, che mi ha detto: guarda, fai attenzione però che questi sono i dati del Ministero del Lavoro. Se andiamo a verificare invece i dati diffusi dall'Istat spagnolo, in realtà la condizione della disoccupazione spagnola, ancora elevatissima, non è cambiata quasi per niente. Ci sono solo dei fattori stagionali, ma non c'è ancora nessun brindisi da fare. Qual è la situazione, Luca? Diciamo che, allora, non voglio essere negativo per forza, però nella situazione della crisi grave che ancora è presente e si sente molto in Spagna, in un paese tornato in recessione che per tutto il 2013 non riprenderà a crescere, insomma con un tasso di disoccupazione elevatissimo che ha paragone solo in Grecia in questo momento, visto che la disoccupazione ufficiale registrata è del 25%. E in questo contesto effettivamente il dato di oggi può essere letto come una boccata mezza, un quarto di boccata d'ossigeno, diciamo, per la Spagna, perché in effetti la disoccupazione è diminuita in dicembre nei dati appunto registrati dal Ministero del Lavoro. È evidente che questo dato è dovuto ai lavoratori stagionali che sono stati assunti per le festività natalizie, nei servizi, dal turismo a tutto quello che è legato al commercio e appunto al periodo di festa di dicembre. I disoccupati però in Spagna restano più di 5,8 milioni e sono numeri abbastanza impressionanti e forse anche non del tutto comprensibili per noi italiani, che siamo abituati a avere dei diversi livelli anche di ammortizzazione e di ammortizzatori sociali come la cassa integrazione e altri strumenti di questo genere, che in Spagna non esistono. La Spagna ha una legislazione che è stata più volte ritoccata e che oggi è molto molto più rigida. Più rigida e più facile per le imprese, visto che possono licenziare quando c'è crisi e riassumono poi con più facilità quando l'economia riprende. Allora, tu racconti molto bene nell'inchiesta appunto condotta questa mattina per Il Sole come il 2013 si prepara ad affrontare un anno che sarà difficilissimo. Il paese deve rifinanziare il debito per 130 miliardi di euro e chiaramente qualche punto di spread, tu ricordi, può fare la differenza. Si sta vedendo in questi giorni anche un effetto Italia sulla Spagna, Luca? C'è di sicuro, si vede e peserà molto durante quest'anno e sta già pesando nelle decisioni del governo di Mariano Rajoy. E la Spagna è quasi agganciata all'Italia da quando c'è il governo Monti, e sta a 70, 80, a volte 90 punti, 90 punti base sopra l'Italia, ma è solo nei momenti di tensione elettorale a Madrid e a Barcellona, ma sostanzialmente è agganciata all'Italia. Quando l'Italia va bene, va bene, va bene anche la Spagna, e in questo c'è anche una debolezza del paese, perché è totalmente, la Spagna è totalmente in balia dei mercati, dei mercati, delle decisioni europee, da Bruxelles e da Berlino italiane, come tu ricordi, esatto. Ecco, questa mattina tra l'altro un'altra cosa interessante, c'è questa decisione alla quale siamo appesi un po' tutti, così anche un po' per curiosità giornalistica, che Rajoy appunto non prende, quella di chiedere appunto gli aiuti internazionali dopo che lo ha fatto per ricapitalizzare il proprio sistema bancario, non lo fa ancora per il sistema paese, e quindi a questo punto ci chiediamo se secondo te entro la primavera questa uscita allo scoperto del governo spagnolo ci sarà, o se appunto dovesse anche mantenersi questo effetto Italia, se Rajoy magari potrà anche evitare di fare questa richiesta. Rajoy in questo momento sta facendo come quegli studenti che non hanno studiato molto, non sono molto preparati, e quando arriva il momento dell'interrogazione abbassano la testa, stanno zitti sperando di non essere estratti nella lista del professore che interroga, nel senso che spera che i mercati siano tranquilli, che non diano problemi, e spera, visti anche i livelli che ci trovavamo prima degli spread, che per la Spagna lo spread per dire sui decennali è oggi sceso a 350 punti, sono livelli che non si vedevano da oltre un anno, e appunto spera che con questi livelli, con la pressione dei mercati che si va allentando, che forse è cambiata, e spera di non dover chiedere aiuto all'Europa. Rajoy ha anche detto, anche nei discorsi di fine anno, che la questione non è più all'ordine del giorno, non è esclusa, ma se ne parlerà più avanti. Stando così le cose, probabilmente adesso la cosa più facile che si realizzi è che Rajoy riesca ad arrivare fino alle elezioni dell'autunno in Germania. In Germania perché? Perché è la Germania a decidere gran parte delle sorti della Spagna, come dicevamo prima, e nel momento in cui in Germania Angela Merkel o lo sfidante socialdemocratico dovessero vincere, non avere più pressioni nei confronti di nuovi aiuti, quindi potessero concedere nuovi aiuti ai paesi in difficoltà dell'euro, e allora a quel punto la Spagna potrebbe forse spuntare un salvataggio soft poco oneroso e vantaggioso per il paese. Al momento non è davvero vantaggioso per la Spagna chiedere aiuto. Allora, un'ultima considerazione, poi vado a parlare dell'auto, però lo faccio questo legame con la Spagna, perché ieri sono stati diffusi i dati sull'andamento rallentamento del mercato dell'auto anche appunto a Madrid, in Spagna, e anche qua chiaramente con questa difficoltà figuriamoci se gli spagnoli possono mettersi anche ad acquistare l'auto nuova. Il mercato dell'auto nel 2012 ha segnato un meno 13,4%, comunque è andata meglio che l'Italia, il maggior calo da 23 anni a questa parte. Perché voglio fare questo legame con l'auto? Perché Luca Veronese questa mattina sul Sole racconta come la Spagna stia diventando per questo settore un paese a basso costo di manodopera, perché ci sono i grandi marchi europei che stanno aumentando la produzione nel paese perché la spostano dagli stabilimenti francesi e belgi. Ma come viene vissuto questo fenomeno in Spagna, Luca? Ovviamente ci sono due elementi, uno positivo e uno negativo. Quello positivo è che davvero le vendite sono crollate nel paese di automobili, ma la produzione sta aumentando, e questo per il rilancio dell'economia può essere davvero un elemento molto importante. L'aspetto negativo invece è il fatto che la Spagna, se continua così, ma si spera che il fondo ormai sia stato toccato o quasi, la Spagna se continua così si trasforma nella Cina d'Europa, diciamo, no? Nel paese dove infatti il vantaggio, questo è un fenomeno davvero interessante. Il vantaggio competitivo è dato dalla manodopera a basso costo, e questo viene in parte confermato anche da alcune affermazioni che mi ha fatto il presidente di Confindustria spagnola, Rosel, un catalano doc imprenditore da qualche anno alla guida di Confindustria, che dice, guardando ai rinnovi dei contratti e quindi al tipo di accordi fatti nei nuovi contratti in tutti i settori, vediamo che ormai siamo arrivati al fondo, dovremmo quindi ripartire, perché, per dire, ormai i lavoratori si accontentano di adeguamenti salariali molto sotto il livello dell'inflazione. Questo vuol dire che la manodopera, ormai le persone sono disposte a lavorare, e non dico a qualsiasi costo, ma anche con contratti davvero ormai arrivati. Io lo so che non è bello, me ne rendo conto, e questo è un discorso che disturba moltissimi dei nostri ascoltatori, però se serve per ripartire da qualche parte si dovrà pur cominciare. Luca, io ti ringrazio molto per essere stato con noi, buon lavoro. Grazie a voi, grazie a tutti. E intanto peraltro vi leggo anche un'altra notizia, perché ci sarebbe un vero e proprio allarme lavoro per tutta l'Eurozona. Nel 2013, secondo uno studio di Ernst & Young, i 17 paesi appunto dell'Eurozona raggiungeranno un picco di 20 milioni di senza lavoro, che colpirà particolarmente duro in Grecia, Spagna, ne abbiamo appena parlato, e Portogallo, con tassi di disoccupazione rispettivamente del 28, 26 e 17%. Adesso abbiamo toccato il settore auto, sentiamo un po' cosa è successo in Italia lo scorso anno. Andrea Malan, il Sole 24 Ore, buonasera Andrea. Buonasera a tutti. Allora, il 2012 viene archiviato in maniera pesantissima per questo settore, non è che ci sorprende più di tanto, però poi sai, quando si fanno i resoconti con cifre che ci danno un po' misure complessive, gli aggregati, e ci si racconta che effettivamente questo mercato non era mai stato così basso dal 1979, allora ci viene voglia ancora di enfatizzare di più questa situazione. Nel 2012 le vendite di nuove auto sono diminuite del 19,9%, appunto riportando il mercato ai livelli del 1979. Solo a dicembre le immatricolazioni sono scese del 22,5%. Per cui in Italia lo scorso anno complessivamente quante auto sono state vendute, Andrea? Sono state vendute 1.400.000, rispetto a un livello che 5 anni fa, nel 2007, il livello record era stato di 2.500.000. Quindi 1.100.000 auto in meno. Diciamo che, volendo esagerare, il mercato si è quasi dimezzato. Bisogna tenere presente che nel 2007 però c'era ancora un effetto di economia, ovviamente, che andava molto meglio, ma anche di incentivi che nel corso degli anni erano stati dati, prima fiscali e poi dalle case, per stimolare la domanda. Questo non va mai dimenticato, perché una parte, diciamo, delle cause della crisi attuale, non solo in Italia ma anche nel resto d'Europa, è che la domanda di automobili è stata pompata per anni in maniera consistente per evitare appunto un crollo, e questo ovviamente si riproduce sulla domanda degli anni successivi. Cioè, se io ho comprato la macchina 3 anni fa, a maggior ragione in un momento adesso di crisi, e magari lo stipendio mi è stato tagliato o temo per il futuro, non la cambio certo dopo 2 o 3 anni, ma magari la tengo 5, 6, 10. Quindi questo è un fattore da considerare. Ricordo che negli Stati Uniti, per esempio, che hanno adottato solo un piccolo piano di incentivi nel 2008-2009, la domanda in quegli anni crollò drasticamente, e poi adesso però i dati sono di oggi, si è ripresa abbastanza brillantemente. Non è ancora tornata negli Stati Uniti a livelli dei massimi, diciamo, degli anni 2000, ma ha segnato anche quest'anno un aumento significativo. D'altra parte è un po' lo specchio di quello che è l'andamento delle rispettive economie, con certo. l'Europa e con l'americana. Allora, in Italia ad essere colpiti sono tutti i costruttori e l'UNRAE, l'Associazione delle Case Estere, in prima fila tra quanti chiedono all'esecutivo, appunto, che guiderà il paese dopo le elezioni, di guardare al settore come ad una priorità. Appunto, l'UNRAE chiede probabilmente di rimettere mano al meccanismo degli incentivi. Non credo che l'abbia fatto invece Sergio Marchionne, che si può beare non tanto delle vendite in Italia quanto di quelle in, appunto, Brasile, Andrea? Sì, Brasile e Stati Uniti, ricordiamo. Un oggi minuto di tempo, poi devo salutarti, sì. Sì, oggi la Chrysler ha annunciato un aumento del 10% delle vendite di auto negli Stati Uniti, 1.600.000 auto vendute nel 2012, e la Fiat in Brasile ha superato le 800.000 unità, compresi i veicoli commerciali. Diamo solo questi tre numeri: 1.600.000 auto negli Stati Uniti, più di 800.000 in Brasile, 415.000 vendute dalla Fiat nel nostro paese. Questo è un numero che deve farci riflettere e su cui poi potremo tornare. Senz'altro. Grazie, a presto Andrea Malan, inviato del Sole 24 Ore. Grazie a Mauro Del Corno per la collaborazione in redazione, Paolo Corleone in assistenza tecnica. Noi ritorniamo domani, per quello che mi riguarda, sia con Salva Danaio, poi con Focus Economia. A tutti, buona serata. Radio 24, la passione si sente.